siamo sbagliati, ma va bene così. Respira che da domani si riparte da qui. Non sono calcoli esatti e nemmeno scommesse da fare per me. Sono funzioni vitali i miei sogni con te. E se non fosse davvero importante, e se non fosse più niente, se non fosse amore, che cosa sarebbe questo disegno di un uomo distratto che è pieno di crepe? Tu mi togli la pelle, mi fai stare bene, perché contro ogni legge statistica tu vincerai sempre. E poi ci siamo feriti e guardati così, come pugili stanchi, fermi al centro del ring. Le linee sulle mie mani, i tuoi voli pindarici non contano niente. Falliranno psicologi, fumo ed alcolici continuamente. Se non fosse amore, che cosa sarebbe questo disegno di un uomo distratto che è pieno di crepe? Tu mi togli la pelle, mi fai stare bene, perché contro ogni legge statistica tu vincerai sempre. Sensazione di aver sbagliato tutto, di aver detto più del necessario, e vederti scivolare via nel mio fiato come una scena che si muove al contrario. E le stagioni che si fondono insieme con alberi rossi, è un fuoco che non si spegne mai. E non lasciare che qualcosa ti sfiori per non rivelare a nessuno quanto male stai. Inciampare, chiamarlo cammino, subire scelte, chiamarle destino, come un uomo di neve davanti al sole. Sono l'uomo di neve e tu sei il sole. Sono la vita che impari a schivare, è la vita che vivi ogni giorno.